Calmatevi, idol mio, di quel ribaldo vedrem puniti in brevi gravi eccessi, vendicati sarem. Ma il padre, oddio! Qual vien chinar il ciglio al volere del ciel? Respira, o caro, di tua perdita amara, fia domani se vuoi, dolce compenso, questo cor, questa mano, è il mio tenero amore. Udì, udite, in se triste momento. E che vorresti come indugi novelli accrescer le mie pene? Crudele! Crudele! Thank you. questo in tavola, son prontissimo a servir, son prontissimo a servir. Ma che spende i miei talari, io mi voglio divertir. Voi sonate amici cari, già che spendo i miei danari, io mi voglio divertir, io mi voglio divertir. Bravi, cosa rara! Che ti par del bel concerto? Conforma al vostro merto. Ah, che piatto saporito, ah, che piatto saporito, ah, che piatto saporito. Ah, che barbaro appetito, che bocconi da gigante, mi fa proprio di svenir, mi fa proprio di svenir. Nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Ah, che barbaro appetito, che bocconi da gigante. Nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir. Ah, che barbaro appetito, mi par proprio di svenir. Che bocconi da gigante, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Piatto! Servo! E vivano i litiganti! Versa il vino. Eccellente Marzevino. Questo pezzo di pagiano, piano, piano, piano, piano, piano, voglio. Sta mangiando quel marrano, fingerò di non capir. Questa voi la conosco purtroppo. Le parole proferir, le parole proferir. Mentre mangio, fischio un poco. Non c'ho far. Cos'è? Scusate, scusate. Si eccellente il vostro cuoco. Si eccellente il vostro cuoco. E lo voglio anch'io provare. E lo voglio anch'io provar. Si eccellente il cuoco mio. Si eccellente. E lo voglio anch'io provar. Non ti va provare. Piangere mi fa con sei. Oh, non derride. Oh, non derride. Oh, non derride. ti piace, mangia con me. Resta ti se non ti muove, al suo collo che sta sentendo. Viva le femmine, viva il bambino, sostegno e gloria d'umanità. Sostegno e gloria d'umanità. Resta ti viva le femmine, viva il bambino, viva le femmine, viva il bambino, sostegno e gloria d'umanità, sostegno e gloria d'umanità, sostegno e gloria d'umanità, d'umanità, d'umanità, sostegno e gloria d'umanità. Che grida questo mai? Va a veder che cosa è stato. Che grida indiavolato, che grida indiavolato, e forello che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Oh, signor, per carità, la date fuori qua, lo di sasso. L'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedesti che figura, se sentiste come fa. Ta ta ta ta. Non capisco niente affatto. Ta ta ta ta. Tu sei matto, verifai, verifai, verifai. Ah, sentite, vai combatte. Apri, io tremo. Apri, dico. Apri! Marco! Per togliermi l'impiccio, ad aprire io stesso andrò! Non vuol più veder l'amico, pian pian nasconderò, nasconderò! Ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascolta, ascol ascoltando ti sto. Non posso. mesi. Non posso, ma se non posso, ma se non posso, ma se non posso. Presto, ma meglio, mettiti. Tra fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, ferma quel passo. Giusto là sotto, piede in crampotto, giusto là il diavolo senza volo.